Noi come Cobas nell'indire questo sciopero ci siamo posti delle domande e la domanda principale è come vivono le donne e le lavoratrici nel mondo della scuola oggi. In verità non così bene come tanti pensano. Basti vedere i numeri, noi come donne lavoratrici nella scuola, parlo di docenti, personale ATA e dirigenti, siamo più dell'80% del numero totale dei lavoratori, ma meno della metà di noi donne ricoprono un incarico, un ruolo di potere all'interno della scuola, che possa essere la dirigenza, l'incarico di DSGA o l'RSU sindacale, quindi ruoli diciamo di decisionali, e già questo è un numero, già un dato piuttosto interessante. E poi l'altra questione che a livello sindacale vogliamo porre con questo sciopero, per cui riteniamo di doverla portare in piazza, è il fatto che sicuramente le donne dentro la scuola subiscono più che i colleghi maschi, ad esempio l'autoritarismo dei dirigenti scolastici, che sappiamo bene essere accresciuto tantissimo dalle ultime riforme, a cominciare dalla buona scuola, ma forse anche più indietro. In generale subiscono sessismo e discriminazioni di genere, ma anche di orientamento sessuale, nei corridoi, nelle aule, ai colloqui con i genitori, negli uffici, ed è tutto un mondo sommerso che noi come sindacato sappiamo esistere, perché delle segnalazioni ci arrivano, e che ci auguriamo possa venire fuori. Prendiamo questo 8 marzo come un primo step per parlarne, per tirare fuori problemi che comunque soggiacciono alla situazione lavorativa delle donne appunto nella scuola. Ultimo punto, sicuramente punti noti e dolenti sia per gli uomini sia per le donne, sono per esempio la questione degli stipendi o anche la questione del precariato, che sono problemi endemici ormai della scuola, che però sulle donne, essendo ancora purtroppo in questa società un anello debole, ricadono in modo pesantissimo. Quindi insomma, tutti questi aspetti che ho cercato di riassumere in breve, un po' le tematiche più strettamente legate al lavoro produttivo che vorremmo portare proprio a mo' di riflessione per le donne che lavorano nella scuola, ma anche per tutto il resto delle persone che vorranno ascoltarci. Ti chiederei ora di concentrarci un pochino proprio sulla dinamica, diciamo, sulle dinamiche di potere, come poi secondo te queste si riflettono anche in questo senso, quindi come sessismo, discriminazioni, nel senso che poi, come dicevi tu all'inizio, le donne, pur essendo la maggior parte delle lavoratrici, dei lavoratori interni alle scuole, difficilmente ricoprono ruoli di potere e insomma un po' lo sappiamo, il femminismo ce l'ha insegnato, e poi alla fine le dinamiche di potere si riflettono appunto anche in tutte le discriminazioni. Sì, certo, qui partiamo da un problema ab origine, e cioè che il lavoro scolastico è sempre stato concepito nella nostra società come un lavoro di cura che è destinato alle donne proprio per questa loro funzione, anzi si è costruito, si è femminilizzato nel tempo come lavoro da accostare al lavoro di mamma e di moglie dentro casa, quindi un lavoro che occupa nella retorica popolare poco tempo, che lascia tempo alla famiglia, cioè tutta questa retorica intorno al mondo lavorativo della scuola e al ruolo delle donne nel mondo della scuola ha portato sicuramente a un atteggiamento generale di discriminazione sia verso il tipo di lavoro sia verso chi questo lavoro lo esercita. Per questo i dirigenti, soprattutto con l'elemento femminile, con le donne, hanno un atteggiamento di un certo tipo, ma anche i genitori nel porsi nei confronti delle donne, in generale tutto l'ambiente un po' è condizionato da questa mentalità che c'è proprio all'origine, come ho appena spiegato. Insomma, è una forma di patriarcato che dalla famiglia si è trasferito anche proprio strutturalmente anche sul mondo della scuola, cioè la scuola riproduce esattamente le dinamiche patriarcali di quel tipo di famiglia che noi ormai combattiamo storicamente, perché ormai è fuori dal tempo, fuori da ogni logica. Purtroppo nella scuola questo patriarcato ancora c'è. Chi è il padre, il pater familias nella scuola? Il dirigente scolastico. Non tutti, grazie a Dio, ma insomma ce ne sono. Quindi davanti a questa situazione capisci che le dinamiche di potere sono di squilibrio, ovviamente, quindi un autoritarismo di un certo tipo si esprime sicuramente meglio. Quindi è proprio questa visione che dobbiamo scardinare sia negli uomini, nel mondo non femminile che è vicino a noi, ma anche nelle donne stesse che lavorano nella scuola. Cioè questa è una mentalità che va superata. Noi siamo lì a fare una professione, non siamo lì a fare un'occupazione secondaria rispetto al nostro ruolo ancillari di madre e di moglie. Non è più quel mondo mondo lì, questo tipo di rappresentazione ci umilia, non ci rappresenta e noi l'8 marzo la vogliamo combattere. Un'ultima domanda, ti chiederei diciamo in generale come si può combattere secondo te dall'interno della scuola anche da un punto di vista sindacale e come diciamo si riflette poi questa situazione che tu descrivevi anche nei rapporti con i sindacati. Guarda, la cosa più importante sarebbe far emergere questo malessere che le donne hanno nel mondo del lavoro a scuola, cominciare a segnalare episodi di sessismo, di autoritarismo, di discriminazione che subiscono, segnalarli a noi come sindacati e poi cercare appunto un appoggio nei sindacati in questo senso, in modo che anche noi possiamo avere una mappatura chiara della situazione, perché ti ripeto è tutto un mondo sommerso. Cominciamo a prendere consapevolezza chiedendo aiuto, ad esempio ai COBAS o al mondo sindacale, ad un mondo sindacale che ascolta, ecco, perché magari non tutto ascolta. E quindi noi comunque abbiamo delle rappresentanze nelle scuole, abbiamo le RSU che sono dei punti di riferimento imprescindibili a cui comunque i colleghi, il mondo dei lavoratori devono fare riferimento, quindi proprio lavorare sul benessere anche a livello sindacale, sul benessere dei lavoratori a scuola, perché i fenomeni di depressione, di burnout collegati anche a rapporti di questo tipo purtroppo si stanno verificando e ti ripeto noi stiamo gestendo segnalazioni in questo senso qui nell'area di Bologna dove noi come COBAS stiamo operando, quindi auspichiamo che ci sia un'emersione, ecco, di queste problematiche in modo sempre maggiore e consapevole.